Se Gesù, mentre era in vita, considerava questa profezia ancora da avverarsi nel dire «quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione», mi sembra che i dubbi spariscano. Ora, se nell'anno 70 si sono adempiute le profezie riguardanti Israele, bisogna concludere che 3 anni e mezzo prima della distruzione di Gerusalemme, cioè prima dell'anno 67 avanti Cristo, l'invasore abbia stretto un patto con molti e fatto cessare sacrificio e offerta. Inoltre, come abbiamo già considerato, secondo Matteo 24, 23, 27, in quel periodo sarebbero sorti falsi cristi e falsi profeti, cioè dei ciarlatani, ma la storia non riporta alcuna notizia a riguardo. Non va dimenticato che l'avverarsi dei fenomeni celesti avviene subito dopo quei giorni e non prima o durante. Questi fenomeni celesti anticipano immediatamente la venuta di Gesù, perché sta scritto: «E allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria». Matteo 12:30. Non avendo Gesù rapito la Chiesa, non essendo ancora stato visto venire sulle nuvole del cielo, la conclusione più ovvia è che l'ultima settimana di Daniele deve ancora avverarsi. Rimane quindi una settimana profetica da adempiersi per Israele prima del millennio. Le 70 settimane, 490 anni, sono divise in 3 periodi. 1. 7 settimane, 49 anni, il periodo occorso per la ricostruzione di Gerusalemme. 2. 62 settimane, 434 anni. Un unto sarà soppresso, cioè Gesù. A questo punto sono passate 69. Ricapitolando, possiamo dire: settimane, e cioè 483 anni. 3. Una settimana, 7 anni. L'anticristo stabilirà un patto che annullerà a metà settimana e ci sarà l'abominazione della desolazione. Noi del XXI secolo dobbiamo attendere questo avvenimento. Non tutti interpretano le profezie in questo modo, ma comunque queste riflessioni devono costituire il fondamento delle profezie bibliche, perché se Gesù arriva prima di questi avvenimenti, siamo tutti ben contenti, abbiamo risolto ogni profezia. Ma se Gesù dovesse tornare dopo i 7 anni dell'ultima settimana di Daniele, allora chi la pensa diversamente dovrà compiere l'atto di saggezza e di umiltà, di aspettarlo immediatamente quando vedrà l'abominazione della desolazione. Quando l'anticristo farà un patto di 7 anni con il popolo, avrà solo da guadagnare. Aprile 2010. Ellero.